Perché se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nel 2006 un tribunale iraniano l'aveva condannata alla lapidazione per adulterio, dopo una confessione storta con la tortura. Ora il mondo intero si mobilita per Shakineh e la condanna a morte è per il momento rimandata. Una donna, ancora una volta una donna, riesce a mettere drammaticamente a nudo le paurose contraddizioni del regime iraniano. Lei si chiama Sakineh Mohammad Ashtiani. È una madre di 42 anni, in carcere perché accusata di adulterio. Un tribunale islamico l'ha condannata nel 2006 alla pena di morte. Nel 2007 la Corte Suprema iraniana ha confermato la condanna alla lapidazione, il supplizio previsto per le adultere. Un tipo di pena che in passato è già stato applicato molte volte, ma che nel caso di Sakineh ha scatenato una mobilitazione internazionale senza precedenti. Vacillano le certezze della parte più militante del regime iraniano, mentre l'ala più moderata dell'apparato e della politica a Teheran si impegnano nelle proteste. Il caso giudiziario è del tutto incerto. Sakineh fu condannata sulla base di una confessione che il suo avvocato, Mohammad Mustafei, denuncia essere stata estorta dopo una punizione di 99 frustate. È stata accusata di aver avuto rapporti con due uomini fuori dal matrimonio, ma suo marito era morto e non è mai stato chiarito il tipo di rapporto avuto dalla donna. All'interno delle istituzioni iraniane si è aperto un dibattito sotterraneo, ma profondo, sulla legittimità della condanna e sulla vergogna che ricadrà su tutta la Repubblica Islamica se ancora una volta una donna verrà lapidata. Un confronto che dal 2007 di fatto ha bloccato l'esecuzione. La pena di morte comminata con lapidazione è praticamente una tortura. La vittima deve essere sotterrata in modo da lasciar spuntare dal terreno solo la testa. Le pietre che le possono essere lanciate contro devono essere appuntite e taglienti, ma non talmente grandi da poterle infliggere immediatamente la morte. Gli ultimi a praticare con entusiasmo militante una simile barbarie erano i Taliban nei mesi in cui regnavano a Kabul. Il responsabile dell'ufficio dei diritti umani a Teheran, Mohammad Javad Larijani, ha annunciato che condanne di questo tipo verranno attentamente riviste e probabilmente cambiate. Larijani è il fratello di Ali Larijani, il conservatore presidente del Parlamento di Teheran, che però è su posizioni duramente critiche del presidente Ahmadinejad. I due fratelli Larijani stanno seguendo, come tutti in Iran in questi giorni, il diluvio di proteste che cresce contro la lapidazione di Sakineh. Sul sito freesakineh.org migliaia di firme si aggiungono di ora in ora a quelle di chi ha lanciato l'appello. Ma questa volta, assieme ai leader politici e intellettuali, si sono schierati i cantanti, giornalisti, premi Nobel, attori ed esponenti di quel mondo dei media e della cultura internazionali capaci di mobilitare le opinioni pubbliche, molto di più del Dipartimento di Stato o del Quai d'Orsay francese, che pure hanno protestato. Non è il mondo della politica contro il progetto nucleare iraniano. È un mondo di uomini e donne che implora la salvezza di una madre. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Vincenzo Nigro? È adultera, lapidatela, il mondo si mobilita, l'Iran rinvia la condanna. Da Repubblica del 12 luglio. A 5 anni dall'attentato alla metropolitana di Londra, Al-Qaeda si è indebolita, ma le basi degli aspiranti jihadisti si stanno diversificando. 5 anni fa, il 7 luglio, 4 terroristi suicidi si fecero saltare in aria a Londra, in metropolitana e su un autobus, uccidendosi insieme a 52 pendolari. L'attacco del 7 luglio non ha soltanto dimostrato l'esistenza di una significativa minaccia jihadista al Regno Unito, ma è diventato anche un modello per le operazioni di Al-Qaeda contro l'Europa e l'America. Gli attentatori erano tutti cittadini britannici, 2 dei quali erano stati da poco in Pakistan, dove si presume fossero stati addestrati per fabbricare micidiali esplosivi da una sostanza facilmente reperibile come il perossido di idrogeno, con cui si fa la comune acqua ossigenata, e dove avrebbero registrato i video da martiri resi pubblici in seguito da Al-Qaeda. La squadra di kamikaze, che 2 settimane dopo compì un attentato quasi identico a Londra, poi fallito, usò bombe analoghe. Da allora sono seguiti altri complotti che hanno coinvolto musulmani europei radicalizzati, tornati dal Pakistan con la conoscenza e la determinazione necessarie a compiere attentati di massa. Nell'agosto del 2006 una squadra di jihadisti britannici venne arrestata con l'accusa di aver cospirato per far saltare in aria almeno 7 aerei di linea transatlantici. Sembrava che Al-Qaeda avesse trovato un modo affidabile di attaccare i paesi occidentali, servendosi dei loro cittadini collegati all'organizzazione terroristica. Ma in seguito la minaccia si è indebolita. In parte perché molti dei principali agenti di Al-Qaeda sono morti o detenuti. Gli attentati suicidi nella metropolitana di New York, una copia a carbone del 7-7, sono stati l'ultimo tentativo di attaccare gli Stati Uniti. Le autorità hanno sventato l'attacco nel settembre del 2009, solo alcuni giorni prima della data in cui avrebbe dovuto essere effettuato. Anche se questo è l'episodio più recente fatto risalire direttamente alla leadership di Al-Qaeda in Pakistan, negli ultimi anni la minaccia si è diversificata. Un gruppo uzbeko poco noto, l'Unione Islamica della Jihad, ha rivendicato un attentato sventato in Germania nel settembre del 2007. Nel gennaio del 2008 i talebani pakistani alleati con Al-Qaeda hanno rivendicato un complotto fallito per compiere attentati suicidi nella metropolitana di Barcellona. Gli stessi pakistani hanno rivendicato il recente tentativo di far esplodere un'autobomba amatoriale nella Times Square di New York. E il potente gruppo jihadista anti-indiano, responsabile della strage di novembre del 2008 a Mumbai, ha inviato uno specialista di sorveglianza per preparare un attacco al quotidiano danese che pubblicò le controverse vignette sul profeta Maometto. Benché tutti questi gruppi siano di base in Pakistan, anche lo Yemen è emerso come destinazione alternativa per gli aspiranti jihadisti. La Somalia è un'altra potenziale esportatrice di terrorismo internazionale. Il locale gruppo jihadista pro-Al-Qaeda ha reclutato forse centinaia di europei e americani, per la maggior parte di etnia somala. Tuttavia, non ha ancora lanciato un attacco di rilievo fuori dalla Somalia. 5 anni dopo, quello del 7 luglio resta l'ultimo significativo attacco jihadista in Europa e in America. Ma con un crescente numero di gruppi che in paesi diversi partecipano a reti criminali internazionali, la comunità antiterroristica non si può ancora permettere di rilassarsi troppo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Jeremy Binni? Terrorismo. Al-Qaeda si è indebolita, ma la minaccia non ha un solo nome. Da Vanity Fair del 14 luglio. Ad Amsterdam, un teatro d'opera organizza incontri per single. Un cronista della stampa ci è andato e racconta la sua esperienza. Se l'elisir d'amore non basta a trovare l'anima gemella, date una mano a Cupido con un bello speed date. È la prima volta che una date night, qui la chiamano così, è organizzata da un teatro d'opera e si svolge durante una recita, si spera a galeotta, dell'Elisir d'amore, la commedia romantica di Donizetti dove il tenore riesce a farsi amare dalla prima donna grazie al vino che il ciarlatano Dulcamara spaccia per un miracoloso elisir, appunto, d'amore. L'idea di piazzarci dentro la notte dei single è venuta alla Nederlandese Opera di Amsterdam ed è semplicemente geniale. Il genio si chiama Michel Jongian, responsabile stampa e pubblicità del teatro. Un tizio sorprendentemente giovane, che in Italia farebbe lo stagista professionista e che qui invece, in t-shirt e scarpe da ginnastica, spiega che il suo compito è far andare all'opera chi all'opera non ci va. E allora ecco l'offerta. Per 45 euro, visita guidata nei meandri del teatro prima della recita. E nell'intervallo, open bar e una sala riservata dove socializzare con gli altri partecipanti, tutti ovviamente single. All'atto dell'iscrizione, ognuno comunicava età e orientamento sessuale e la squadra del signor Jongian gli assegnava una poltrona accanto a un altro single di anni e gusti corrispondenti. Il vostro cronista, oltretutto single e opereoinomane, non poteva mancare. Quindi anch'io sono stato infilzato con una spilletta tonda raffigurante una bottiglia rossa con un Alberto in nero. E poi messo all'opera fra una sessantina di single, scaldati a dovere dal primo atto di una spassosa produzione di Guy Josten, che però, come tutti i registi stranieri, sposta un po' troppo il poetico mezzo carattere dell'Elisir sulla farsa. Come sempre, le donne sono più numerose e più estroverse. Prevale la ben nota 40-50enne, con un divorzio o due alle spalle. Cinica il giusto, ma si capisce ancora disposta a crederci, o almeno a illudersi. Ma dietro le spillette spuntano anche Madame dai capelli bianchi che mai e poi mai, da questa parte delle Alpi, farebbero una cosa del genere. Miss Elisir è invece una giovane hostess, subito ribattezzata l'olandese volante e infatti vola via prestissimo. Le altre sono cordialissime. La prima frase nella lingua locale viene seguita dalla mia ammissione di essere A. giornalista, B. italiano. Quindi si passa all'inglese e vengo automaticamente promosso a esperto d'opera. Insomma, per la maggior parte del tempo mi ritrovo a raccontare Donizetti come se ci avessi parlato il giorno prima, mentre è morto da 162 anni di una sifilide risultato di uno speed date imprudente. Secondo argomento di bla bla, ovviamente, Berlusconi. La nostra grande griffa internazionale, di cui tutti sanno tutto, quindi, cari sinistrati, inutile andare all'estero per dimenticare. Insomma, alla fine, più che a Sodoma e Gomorra, la situazione assomiglia alle solite quattro chiacchiere nel foyer. Bilancio finale? Vedo bene tre coppie, di cui una di lui e lui. Mi sa che i gay beccano sempre di più. Chissà come finirà. Però adesso che le coppie sono state accoppiate, sarebbe divertente l'esperimento opposto. Farle scoppiare. Proviamo con il così fan tutte. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alberto Mattioli, Ad Amsterdam, vai all'opera e incontri l'amore. Dalla Stampa del 4 luglio.